su DCCQ. Ma stai se facendo male? Come? Stai facendo male. Che sto facendo male? Ho una pernata dietro. Chi sei? Chi sei? CQ10, chi è che ha detto che sto facendo male? Attenzione 10. Hola. CQ10. CQ, c'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. Andando a Venezia e poi c'è il Gigetto, che quello è in vita. potrebbe interessare uno, ma adesso dai. Uno mi potrebbe interessare di quei microfoni che c'hai. Io non so cosa ti potrebbe interessare, ma i microfoni non sono in vendita, assolutamente. Sono solo al regalo, così. Al regalo con 500 euro. Al regalo come ha regalato quello lì a spandere 500. No. Neanche a farlo. Lascia perdere. Dunque, stasera ci ho comprato una bella torta gelato. Hai fatto bene, così la glicemia sale. È rotto un po' bassa. Comunque, adesso se vai... Adesso ti metto... Se vai da oggi alla CRAI ci sono tutti i gelati in offerta, tutti i gelati, l'anguria 99 centesimi, no a 75, non a 99, a 75 centesimi, c'è un bel di roba in offerta. E perché la CRAI non sta chiudendo? No, assolutamente no. Ma non sono tutta la catena di CRAI che hanno chiuso? No, non è la CRAI, è la ex Sisa, quella del Renato Carpi. E la CRAI dov'è adesso? Questo che c'è i gelati di famiglia. La CRAI c'è anche sotto casa, oppure c'è a San Francesco, salendo per andare alle corna, lì c'è uno di CRAI. E di Mura la CRAI, no? È a Sassari. C'è in via Florida, se vicino a casa. Non ho capito. Va bene. Quindi tutti i gelati in offerta. Cosa aspetti a prenderti? Non prendo più io. Io sono canale di troppumetto lì. Io a volte non mi faccio insulina e c'ho la glicemia giusta. Sto riuscendo anche senza farmi l'insulina a avere la glicemia giusta. Certe volte non la faccio. Quando ce l'ho a 80 così non la faccio. Questo te l'ho mandato anch'io, ce l'ho sempre bassa, 7-7. Ma se mangi gelati ti sale. I pinguini non la fanno salire, l'ho appurato. Sì, ma la mangi gelato che mi sale 130. E tu se ne farò ancora. Ma gli sbalzi te l'ho spiegato, me l'ha detto il dottore. Che gli sbalzi sono quelli che rovinano tutti gli organi. Anche se c'è degli sbalzi bassi, per dire da 80 a 100, che rovinano gli organi. Ti sale un po' giustamente se mangi più di zuccheri, è quello che lo fa, capito? E vabbè, ognuno la pensa come vuole, giudica dove ti dica. Però è così, a me me l'ha detto il dottore, non è che lo sto dicendo io, no, me l'ha detto il dottore, perché è successo anche a me, che avevo questi sbalzi, e beh, te lo vede, questo grafico, deve essere piatto per andare bene. Se ha delle salite e delle discese vuol dire che sta salendo e scendendo la glicemia, così non va bene. Al contrario, ha detto, adesso il cardiogramma che deve essere così, alto e basso, che sono i battiti, se è piatto sei morto. No, ma a me è sempre tranquillo, dai. Poi, proprio tu vai a parlare, ti prendi le pizze, cosa vuoi di più? Ma io pizza ne prendo due, a me non me la fa salire la pizza, se ne mangio due, se ne mangiavo quattro sì, ma se ne mangio due non mi sale, adesso ne sto prendendo due, buh. Sempre carboidrati sono. Poi l'ho misurata prima e dopo e non mi sale, in eccesso, mi sale 135, però non di più. Non mi sale in eccesso, ma ti sale in cesso. Saga Rugantà, a Gianni, che senza mangiare per le mani. Ciao Natalia, che non lo so, come io che lo conosco voi, ma... tu quando dici, ci ho mangiato due pizze, mi mangio, adesso ne mangio quattro. Ciao Tattalino, sempre in Barabba, ad esempio, no? E allora, cazzo, allora non mangi nulla e muori, cosa vuoi ti dica? Cazzo, se non vuoi risbalzi, non ti devi sentire tutto. Non mangi nulla, così crepi di fame e va bene così. No, non nulla, Natalia. Una cosa è non mangiare nulla, una cosa è mangiare la roba che non ti fa male, tipo insalate, verdure e cose via dicendo. E ma alla fine ti viene un colpo apoplettico se non mangi. Se mangi solo insalate, verdure, come ci si sente tu. E allora i vegetariani dovrebbero essere tutti morti, che non mangiano né carne né derivati della carne. Ma i vegetariani non c'hanno il diabete. Così è. I vegetariani dovrebbero essere tutti morti a quest'ora, perché mangiano solo verdure, non mangiano né carne né derivati. Sì, ma morì subito, però non durano assai. E poi i vegetariani già non sono mica diabetici, no? Sa c'entra? Però mangiano verdure, e lui ha detto che uno se mangia solo verdure da poi si rimaglieggia. Ebbene, Natali, la moto trovatela. No, oggi ho fatto solo la visita diabetologica, ne ho visto solo una di moto, ma era pulita a 3.000 euro, c'aveva 20 giorni di vita, un'Honda 125 era, da Ettore Tola, 3.000 euro però col passaggio, ne uria. 3.000 col passaggio? Natali, e col tetto io non ci sei andato. No, devo andare da quello là di Predanida che mi hai detto tu. Non è Predanida, prima del quadrato. Sì, chi sono là, sono andato da chi sono del quadrato, non è. Eppure è pieno di moto chiso. Stavo vedendo stamattina una moto da strada, un Kawasaki. Non ne voglio di chi si, voglio uno scooter 125 piccolo, se è possibile. 125, non di più. Non ne voglio da strada, da chiccia, da chiddu. Cazzo, anch'io non la più, così è 50. Solo che è troppo pesanti e vanno per la volta a pucciarlo. E chi su è? Mi servi una minori. Lizzera, se possibile. E quella di Angelo, stai dicendo? Il Burgno c'è 50. Quando ho passato a quella persona a 200 all'ora. E io su camminava. Se il cattivo faceva 170 km orari, erano 400. Quello camminava un bel. Ehi, c'aveva pure le marce, quello. Te l'ho detto, no? Cazzo, lì su era una belva. Però pesava pure 220 kg. Se cadi a quella velocità di un altro mese. Beh, te credo. Poi voglio una moto piccola e gli taro anche l'acceleratore. Più di 50 non deve andare. Natali, perché o ti prendi quella di Gio Maria? Elettrica. Non ne voglio elettrica. Cosa me ne posso elettrica? Dove me la metto a caricare questo e quell'altro? No, no. Moto normale, a benzina. Ma poi non paghi, né morro, né assicurazione, né nulla. Sì, tu Rudy, pure rimano fatti, mi so pure indicare, l'ugasco, l'assicurazione e lo bullo, non solo d'altro. Figurati a chi si elettriche. Anche i manofatti mi vogliono mettere l'assicurazione, il bollo e il casco buco, sta di buoni. Con i manofatti, ma io che fanno ridere. Beh, io sono manofatti, ho fatto il casino, però in alto marciapiedi, mentre la carriera, ho fatto un casino. E c'ho ragione. A Darga, arrivano i buoni. Cazzo, voglio vedere di più la bomba, ero manofatti, non a Darga. A riparti di un proprietario la bomba. Adesso quelli che stanno nel rullicio. Assicurazione, perché con il padrone deve fare tutta l'assicurazione ma la parte. Vedo fai. Mi dà stessa cosa che ho detto io, ci siamo sopravvissuti. Sì, infatti, dovrebbe fare l'assicurazione e casi per tutti i monopatti, saranno tutti. Sì, non ce la farò più, capito? Targa, assicurazione, poi la capisci. Mi diciamo che esce pure dalle palle, però siamo cogliete che ci hanno imparato le loro copie, hanno pagato 300 euro, capito? Sì, è vero. C'è molta gente che ha il suo, ma conviene prendere in affitto, non c'hai nessun problema, li prendi in affitto quando ti servono, poi li lasci dove ti capita e vanno loro a prendersi. Ma quindi li farò sparire adesso già, non so se vuoi c'è 100 manopatti, li fa 100 assicurazioni e 100 targhi. Oh. Sì, ma infatti, no, secondo me saranno tutti, non ve la fate, io ne manco mai calcoli. Tutto lo ricordi a Porto Torre, tempo fa, che avevano in affitto quelli a fare il rubio alto, due ruote grandi e camminavano in mezzo a Porto Torre. Eliminati, spariti anche quelli, che erano pericolosi. E i tandem, stai dicendo, sì che me li ricordo. Erano neri, sì. Anche quelli sono spariti, e così faremo ricchi. Ma tanto che c'è con uno solo, che va bene, va in un altro cane, che devo regolare una cosa. Con un gatto di bici, gasmaio, non c'è vecchi, quelli chiudono tutti. Sei andata lì con quello schifo che stiamo a fare, dai. E ruote piccoline, prendi un mucco, cacci di fai male, ma non te ne no, no, no, no. C'è anche mio figlio, ma è una compagnia sua, ce l'hanno. Infatti, si cosa, non le uso più l'assicurazione, o se l'hanno comprato loro 300 euro. Sì, infatti. Adesso quelle moto elettriche che stai dicendo tu, quelle lì pagheranno l'assicurazione lo stesso. Vedrai tu. Anche prima di darti una caramella e dopo ti inseganni anche. Ma meno culpa che a me interessa la macchina, lì. Anch'io stavo pensando a prendere un motorino così per la città, un cinquantino, poi se non lo faceva, no, lascia perdere. Rimango con la macchina e buco. Ma al 50 ti fanno pagare l'assicurazione, capitola. Io me lo voglio prendere il 125 per quel motivo lì, per pagare meno di assicurazione. E Lucia Romanco, poi se mi ne voglio andare a Plaza Mona, me ne ando a Plaza Mona con lo scooter 125. A Romanco sono così lui, non mi dà capelli. Già va bene, dai. No, io con la moto basta, vado a vedere su Marco, passo con lui, ho abito di pieno, no, basta. In macchina sono più protetto. Sì, già lo so, in macchina sei più protetto, sì. Ma io è per l'affare che non posso camminare, gliel'ho detto oggi mi alla diabetologa. Ma cioè, non mi hanno dato nessuna risposta, sono andato anche dal chirurgo vascolare, la giudizio. Allora, lo dico a voglio vedere se mi visitano e se mi battono, che c'è operazione, perché se a me mi tappano quell'arteria torna normale la gamba, che fanno per camminarmi, cazzo, se no che a pigliare la macchina, mi dà fastidio andare a pigliare la macchina a me, perché come arrivo lì al mercato, cazzo, mi viene un dolore allucinante. Capito. Gianni, eia. Come me e Torino non si può capire nessuno, che l'abbiamo avuto anche noi le stesse cose. Io mi ricordo che anche Torino faceva fatica lo stesso, come me tra l'altro. E io facevo tre passi, devo abusarmi. Ti capisco, la tua lì sono passato perché sono andato a operarmi allora. Adesso trovo bene. Pensa che è andato Gianni, canale 11, ho piatto, mi abbassavi di segnare ancora di più da Natalino. Non ho capito Torino. Che eri sull'11 e quando hai provato a fischiare eccetera hai abbassato il segnale di Natalino qui. Perché mi segnava stazionario, sono andato un altro canale perché certo sono stato un secondo solo. Capito Natalino, ti capisco Gianni, lo sa, perché io quando andavo a controllo da Gianni andavo a passeggiare il cane, no Gianni, vero posso, due passi mi abusavo, perché io guarda, ho passato male veramente, ma dolore in forza al vero. Quindi, tu hai fatto dell'artiglia, a me no, il fatto di nervi, della prova vertebrale, infatti mi sono operato. Sì, lo so, io vado due bassi, non hai visto, faccio due bassi e quando ti viene quel dolore ti dirvi, ma fai tutta. Gesù, adesso come rientra quella di Alghero, vado e vediamo. Ha detto che vede tutte queste visite che ho fatto. E così vediamo un po', così riesce a farmi la guardia. Ti faccio la pompetta, la vena. Un bel passo per va, è un macro che abbia bene. Ah, basta che la studi, non solo. E se non mi bongani la pompetta, poi ti hanno chiesto i buoni. L'importante è che la lanca d'oreo è normale, io posso camminare. Cazzo. Basta, io mi voglio pigliare un motorino per poter. Ma non avevi il dolore così, non posso andare né a farmi le commissioni, né chiuso, né chiuso. Sempre sarrati in casa, invece si va la moto, andi e puoi andare in un gnarugo. Puoi andare, molte volte la macchina non la prendi neanche, perché la macchina io la prendo quando devo comprare roba, che devo caricarla, se no avrei preso sempre la moto. E io la vivo me. A aveva bisogno di soldi, me l'ho venduta, nuova nuova era, uno scarabeo a quattro tempi era, 50, ma tu camminava, era bellissimo quello scarabeo. Natalino, ma tu fumi? Eh sì. E perché non smetti di fumare? Che sarà anche per quello che tu c'hai la vena otturata? Cambia base, con tutti i nervi che va giù e tutte le maledizioni che mi sono capitate fino adesso, come fai a smettere di fumare? Uno deve essere tranquillo. Io ho smesso. Da lassù che ho fatto quello pure, grazie a Dio, c'è stato diciamo un campanello d'allarme e ho smesso, e non dipendeva dalla sigaretta, ma l'ho mollata. Quindi, mi ho risparmiato in salute e tutto, e di là. A chi ho più fiato, ho più tutto, dai. Avanti già. E la mattina si svegli col catarro, sempre tossendo, sempre va, ma mi dà di quasi di bruvia, quindi la sigaretta, a me, figurati, e ne fumavo, quando andavo a pescare anche due pacchetti ne partiva. E lo so, uno che fa vita, che ha appena fumato, lo sento subito, mi metto più distante, perché non piace anche a me, purtroppo è così. Ma comunque, Natali, se tu smetti, io sono sicuro che tu vai più bene al 100%, in tutto e per tutto. Chiedi a Natalino quante volte glielo ho detto, se non ci pensa lui, deve essere una cosa che si deve mettere in testa lui, se no non ce la fa. Ci vuole forse volontà. Tranquillità soprattutto ci vuole. Siccome io non sono tranquillo che me ne hanno fatto tutti i colori, e allora è per quello. Deve stare tranquillo però, sereno, calmo, e tu devi fare un modo, fai incazzare l'asino e tu non ti devi incazzare, vedrai che la cosa giamba. Pacco il microfono. Bruno, ti spacco il microfono, l'antenna, tutto ti rompo. Bruno, scuca caro. Mi avrebbe occupato oggi. Era poco di scioppa. Sì, che vi spacco l'antenna lì. Ascolta, ma ti devo fare sordo? Ti va bene così? Ma chi è questo che sta parlando sottovoce? Non lo sento. Me ne approfittato perché sono piccolo e nero. Comunque, ciao Bru. Comunque, la sigaretta fa male, lo sappiamo. Punto e basta. Io non so qualche cosa di una persona che l'ha preso proprio le gambe, poverino. Ma già ne c'è anche. Ehi, abbasso sto scena, ovvero. Voglio che la si sciolga l'apparecchio. Stacca! Passo Gianni, ma cosa gli è successo? Minchia, si è visto che ti ha attaccato già. Ah, non sono attaccato. Io sto usando le fighe al zero. E tu hai sempre un segnale. Se è stato lì picco e tu mi ha attaccato a. Cioè che è burato che scioglie con l'antenna. L'hai tolto un po' di polvere, dai. Natali, avanti. Dai, io vi lascio che devo preparare qualcosa per cena, là. Ci sentiamo magari alle prossime. Salutoni a tutti e due, là. Ecco, buona preparazione di carica, Natali, salutami a 50. Ci sentiamo, avanti già. Ehi, siamo in tre comunque, c'è anche Bruno. Ciao Natali, ci sentiamo, là. Buona carica. Ciao Bruno. E già l'antenna un po' capottata. Poi se tutto va bene già ti arriva forte. Sino il cuore, l'amore. Dove sei Bruno? Dove sei? Infatti sono via Giovanni Pasqua, sapeva farmi sentire un pochettino. Qua sono dalle parti, fra un po' sono. Mi tira Gianni, adesso passo sotto casa sua e gli spacco l'antenna. Ah bravo, ti sciolgo la parita. A me mi sa che lui va le zolliate perché c'ha l'amante lì. Sì. No, la cosa costa troppo, lascia perdere. Cazzo, non mi manca, se vuoi venire a parlare, se vuoi anche la volta, cazzo. Ma la sposa di tutto, no? Oi, e niente. Oggi, peperoni con pollo, che buono. Le faccio anche io, le cosce, le ali, faccio con i peperoni. Sì. Oh, corse, proprio corse, ne ho messo 8-9, tutto quanto, via. Ma non farò sempre errore, se l'altro giorno ho fatto una pizzaiola ed era buonissimo, anche così, fatto così con i capelli, eccetera. E bisogna alternare ogni tanto. E via, poi stasera. Mi butto un po' di bustina nel mondetto, ne ho tre, vediamo le mani, cazzo. Mi lo vedo, tu casa la palla. Non è che sono già venuto a buttare la sua casa tua. Non so, ma se ci trovo la sua capuri. No, io ho le buste, quelle, la tassa mondetta la sto pagando, quindi mi viene più facile, quindi davvero ci passa. Poi, tra l'altro, cosa vuoi dica? Già che prendo la pizza lì, mi viene automatico. Ah, no, io sto scherzando, però a parte gli scherzi, una volta quando stavo passando col Kaiser si sono fermate le guardie forestali e hanno fermato questa roba che stava buttando la mondezza, ha detto lei dove abita? A Sant'Orso, e allora lì butta, perché qua non la può buttare, Sant'Orso là è un'altra cosa, lei non la può buttare qua. E lei ha detto sì, ma io sto lavorando con una signora che poi mia moglie se mi ha chiesto di buttare la mondezza, ah, se così è un'altra cosa, ha detto, però ce lo deve dimostrare. E dopo non so come sia finita, perché me ne sono andato col cane. Io da dove abito io, giustamente, Sassa le due, là al chilometro, hanno tolto i cassonetti. A me, faccio il giro, mi viene più vicino, gli amore, se lo butto lì, non c'è problema. Sì, perché anche vicino a casa della Max Moody li hanno tutti i cassonetti, hanno messo quelli porta a porta, li devono mettere all'interno del cortile del condominio, loro passano e se li prendono. Perché la mondezza, ascoltatemi tutti però, dovete buttarla nel portone del sindaco. Già che è aumentata, arrivi dalla tassa mondezza aumentata. A me 148 euro all'anno. E non paghi tanto. Intanto, ora pago tutto il colpo oppure realizzata. Ma pago tutto il colpo, lo sai chi vedi. Io lo stesso, l'ho pagato 187 io. E beh, c'è una casa più grande. Poi dico questo, ma allora come hanno fatto? Infatti vorrei andare, dico, metti mai 148. Ma quanti metri quadri ho io? Lo sai, se mi è venuto a controllare, no, non sa dove abito. A me è solo un briccio che io abito in 30 metri quadri, dico. Sì, ma se non ha solo paghi poco, se ci fosse state più persone avresti pagato di più, oltre a metri quadri sono altri componenti familiari. Lo sai che ho più grande il giardino che la casa, se ti fidi. Ma fa tutto culo, ho capito. Poi c'è la veranda che fa parte della casa, sempre. Infatti posso mondezza pure in veranda io. Ho anche due cani, giusto? Fanno mondezza, me tre. Ah, cani non conta. Comunque io sono andato perché mi stavano facendo pagare, lo sai, mi stavano facendo pagare per quattro persone. E io gli ho detto, guarda che io non sto più con mia moglie, i miei figli vivono con lei, quindi io sto pagando per quattro persone e sono da solo. Ah, se è così, allora la prossima arriverà a zero. Mi è arrivato a zero. Meglio così. Bruno, sei arrivato dove c'è davanti? Sì. Dove sono adesso? Parliamo di mondezza, che sono incantato meno, noi siamo in tre e quattro col cane, qualunque. E sino a qualche anno fa che Laura era fuori, perché aveva in Belgio, pagava una certa cifra, adesso da due anni è rientrata qua, perché chiaramente sono stato lavorato, era una bambina piccola, e dunque mi hanno, non dico raddoppiato la cifra, ma me ne hanno scocciato la cristiana. Adesso non so se c'entra anche metri quadri, io ho 120 metri quadri, però siamo io e mia moglie e Laura, siamo in tre, da due anni a questa parte, ma non che vada quasi a culo verrà. Loro fanno il calcolo, le persone che ci abitano più metri quadri, capito, e aumentano. Perché anche la casa da sola fa di mondezza rasura, secondo Capodetti, ma... Secondo me è sbagliato il sistema, perché noi, vabbè, fino a un paio d'anni fa eravamo 72, perché l'aveva da fuori, adesso sono rientrata, allora hanno visto che c'è stata questa, mi hanno eliminato il muro di luce, perché c'è gente che lo prende, io non ci rientro, perché chiaramente per fare la richiesta ho dovuto presentare anche l'affare minimo di Laura, hanno visto che c'è anche lì qualcosa sul conto, hanno fatto il conteggio nostro e mi hanno mandato a culo, però in compenso mi hanno pagare, quando canto pagani c'è gente che ha 5-6 figli, lì ci sono più persone, loro cosa consiglio? Non lo so come lo faccio. Allora, più o meno è questo. Tu prendi un uomo che abita in una casa di 120 metri quadri ed è solo, paga la bolletta di 200-300 euro. Prendi 5 persone o 6, in una camera soltanto paga una cazzata, e poi quelle persone fanno più contento di quell'uomo solo. Tra poco mi vendo la casa, mi vendo un garage, mi vendo un campo, allora non lo pago più niente. E poi in campagna molta roba la brucia, non è che produce molta lunghezza. Per dire, c'è un amico che abita in campagna, la carta, tutta quella roba lì la brucia. E c'è qualcosa che se voi vi ricordate, perché a Roma sto ricoglionendo io, ma la memoria è ancora un pochino è a posto. Quando hanno cominciato, che non so, io a mettere la fare una casa, una cosa differenziata, avevano detto che quando partiva la cosa differenziata, tutto si era stabilizzato, avevano pagato di meno. Invece stiamo facendo lavoro loro, perché prima la raccolta la facevano loro, adesso la facciamo noi, gliela differenziamo, gliela portiamo giù, gliela mettiamo quasi dentro l'autocarro e stiamo sempre pagando di più, sempre di più. A questo punto che cazzo non ne importa a me fare la differenza, adesso comincio a buttare dalla finestra, me ne frego, comincio a buttare che cazzo, la plastica che io ho sempre conservato, faccio un colpo, mettiamo un bottiglietto di plastica, allora cominciano a parlare, ma come? Intanto non c'è manuta. Io la faccio indifferenziata, tutto in un cassonetto, tutto una busta, non me la frutta inutile, e ti spiego perché. A Trucco Reale ci lavoravano, mi sembra, 30 operai, di cui c'è anche un cimino, voglio fare il nome, e facevano la potenza differenziata e lavoravano. Il comune cosa ha fatto? Tutti licenziati, dobbiamo farla noi differenziata a macchi, e mi mette la tassa, poi ha detto vaffanculo, io ce l'ho potuto lavare, già via luce. Sì, lavorava anche mio compare, divideva le bottiglie colorate da quelle bianche. Cristian Policino ci lavorava lì. Ci ha lavorato anche Bassianino. Faceva questo lavoro qua, doveva togliere le bottiglie colorate e metterle da una parte, e quelle bianche dall'altra. E differenziavano anche i colori delle bottiglie, figura. Io dico, paga tu a me e io me la faccio differenziata, ok? Non che tu mi metti la tassa, poi Giorgia doveva aumentare, non solo ha risparmiato con 30 licenziamenti, no, non spendo più soldi, però automaticamente loro hanno aumentato la tassa a noi, non va bene così? Sì, è tutta una truffa. Addirittura ci sono stati paesi che hanno preso il premio anche, l'hanno diminuita, il comune ha diminuito la tassa, invece qua è sempre alta, sempre di più, sempre di più, non dovrò mai più a pagare. Comunque quello che parte dal comune, il comune che deve decidere le cifre, perché sono loro che non ce la vogliono fare, perché in molti paesi i sindaci hanno abbassato le tariffe e sono questi maledetti delinquenti che abbiamo noi che ci amministrano a Sassari, perché sono delinquenti. Ma ce l'avete votati voi, nel senso che gli abiti di zanne non votano nessuno. Io si vede nei passanti a giubuttare, in alta eti, io sono quella vita che non ando a buttare, e cosa vado a fare a buttare? È una vita cosa. Oh Bru, comunque c'è molta gente anche che non la fa la raccolta differenziata, io ho visto, vengono dalle campagne e portano quei sacchi neri che già tra l'altro non si possono usare, li riempiono di tutto, di più ferro, di tutto, e si danno a fare le differenziate. Ma noi il cassonetto fuori prima togliano tutti e non ci hanno messo questi con la chiama, no? Che oramai sono già preparati a chi tutta la gente che si fa è difficoltà a aprire la chiave, la serratura e tira in mola, si lasciavano la modesta lì e che non davano in terra. Allora adesso rimango sempre a pietra sono preparati, no? Tutti quelli che passano anche il vicinato buttano a cazzo di cane. Non sai come funziona, perché me l'ha spiegato nel portone mio ci abita anche uno che lavora all'autoparco. Loro passano, me l'ha spiegato anche Marino una volta, lo conoscete Marino? Loro passano, se vedono che nel cassonetto del vetro, per dire, c'è altra trattatura, oppure nella parte dell'umido c'è altra roba, mettono un bollino e poi fanno salvare al condominio. Cazzo, che colpa ne ho io, se c'ho un coglione che butta la roba fuori dal cassonetto dove non deve differenziare. Per colpa sua prendo la multa io. Sì, è vero, sì sì, lo so. A questo punto, cazzo, scusa, se tutti buttano, ma poi io li vedo. Io li vedo, anche vicino di casa. Non è che rispettino molto, solo la plastica, perché la plastica non si butta dentro il cassone, si lascia fuori. Dunque, se butti plastica durante la settimana, allora la vedono, è chiaro che fanno il controllo. Però per tutte le altre cose, ma mica quell'operaio lì che va a ritirare i cassoni va a controllare cosa c'è dentro, gliene frega, sai, prende e scarica tutto dentro. A questo punto cosa me ne fotte a me di fare la differenza, perché si tira un collo. E poi comprare tutto un minimo, non dice a tutte le persone, la raccolta differenziata non dobbiamo fare nulla, devono fare loro, e per non pagare gente la fanno fare a lui, hai capito come la studia. Certo, se uno può dividere la roba è meglio che la divida, però far lavorare anche la gente lì dove avere tutto un minimo, perché c'era anche mio compare che lavorava lì. Siamo andati là, ci hanno dato le buste per lui. Come te le apri, siccome sono quelle via da gare l'apri, no? Come le apri se rimangono in mano? Cioè sono tutte fatte a pezzi. Dopo dovuto andare a comprare le mie buste, vabbè. Dopo ho dato un'altra buste, ho detto guarda che le buste non sono, queste sono le buste. Ma le staccate nel culo che noi non le paghiamo. Non ho capito. E guarda, è tutta una... è per dire... poco fa stavate dicendo questi personetti sono scesi la zona, allora io la sera ti dico, io tra la mattina vado a Platamona, vado, faccio un bagno, uscio dalle 6, mi faccio un bagnetto fresco fresco, l'acqua fresca, e poi me ne salgo. E l'altro giorno ho raccolto un paio di bottiglie di plastica che c'erano lì in spiaggia, perché gli stronzi la notte, la sera, quando vanno a pescare lì, lasciano le bottiglie di plastica, io la mattina vado lì, la prendo, raccolgo e sono salito su ai cassonetti, perché lì dove c'è il presidio militare hanno messo i cassonetti comune in Sassari. E c'erano questi barracelli, no? Dice, ma lì questa zona? No. Perché ho buttato la roba qua? Perché l'ho presa dalla spiaggia? Ma lei gli ha detto buttando dove abita. Secondo lei gli ha detto ho preso due bottiglie di plastica dalla spiaggia, me ne porto a casa e poi allora io gli dico, lui ci va a luce della Simbisso e ti ammazzi, tu e la plastica. E se la ricazione di burro. Scusate, sono al telefono. Sì, sì, tu. E quindi fai da bene e ricevi il calcio da sedere, sempre così è stato, sempre. Bisogna farsi gli affari su e basta. Quando uno si prende la briga di essere civile, viene sanzionato. È come quello che aveva tappato il buco che c'era nella strada, che l'aveva sanzionato perché ha tappato il buco. Ma lì mi dubbio. Quella è stata una cosa scoordinata da parte degli amministratori di quel comune a Roma, perché sono una massa di stronzi. Guarda, a mio fratello avevano messo 500 e passa euro di multa, e perché loro che cosa fanno? Loro mettono le telecamere, non so, arrivi con la macchina, poi identificano la macchina, vedono che non sei di quella zona. Lui però, cosa succede? Adesso hanno messo il servizio, lui era in campagna, perché ha la campagna comune di Sorso, e lui però è residente a Sassari, e dice... Beh, gli hanno preso la targa e gli hanno mandato 500 passa euro di multa. Adesso non so come sia finita, perché è andata a parlare con il sindaco, perché dice io sono in campagna, se il servizio non ce n'è, e la butto lì. Perché lungo il litorale, è un riotolo che c'è da Platamona che va a Sorso, e ci sono questi cassoni del comune di Sorso, e gli devo mandare a mettere, me la mangio. E c'è adesso da qualche mese stanno facendo la differenziata anche lì, gli hanno dato il cassonetto, gli hanno dato, e entrano proprio vicino al viottolo dove abita lui, è un viottolo di campagna lungo, e stanno facendo la più. Però prima che non c'era questo servizio. E lui gli hanno fatto verbale, capito? Perché loro guardano la targa della macchina e controllano se c'è di quella zona. E questo non è giusto però. E infatti la multa della modestia in macchina la cuba in mai alla Franca, questa amica mia, per due volte gli hanno messo la multa, con tutto che fa la differenziata, ma ha messo delle buste che non erano idonee per buttare la molletta, cioè praticamente invece che mettere quelli grigi, non so che cosa, ha messo buste della spesa che sono biodegradabili lo stesso, e gli hanno messo due volte la multa, 180 euro di multa a volta, capito? Ma sto dicendo, loro si danno tutte le buste di buste un colore, capito? Allora ad esempio io molte volte, se non ho ad esempio per la busta che danno a me, quella gialla per la plastica, è enorme, io ho un contenitore piccolo a casa, non sto usando neanche i contenitori, ci hanno dato loro perché sono troppo grandi, me li ho comprati un po' più piccolini, ma neanche stanno sotto la cucina. Allora, cioè, quelle buste gialle sono enormi, io so che una famiglia da 10 persone. E dunque cosa succede? Che io qualche volta prendo e butto in una busta che mi hanno dato loro, che è viola, una busta viola mi sembra che sia. Poi c'è una grigia che è quella per i metalli, credo, cartoletto, roba così. E allora di, meraviglioso, è vicino di casa, ma tu che quella da usare, ma gira per le male, vai a mappa, e allora quando uso quelle normali, io uso quelle del supermercato per l'umido, perché quelle che mi hanno dato loro se le vengono in mano si rompono, ma si sciogliono perché cioè, sono mio degradabili, ma non esitano. Alla fine non devono fare la multa perché ho usato la cosa al supermercato, allora lo dico già, e un video all'anno non sto facendo niente di male. Lo so, ma anche io li uso, quelle sul supermercato li uso anche io, perché sono biodegradabili tra l'altro, però sono più forti di quelle che ti danno loro, senza ombra di dubbio. E a volte anche quelle lì, se la lasci più di due giorni la mondezza, si scioglie, li imbruisci, e te ne si cola tutta la roba, infatti molte volte ne devo mettere due, perché se no ti cola. C'è sempre qualcuno che nelle scale la fa colare, se la fuzzi di casa, non la lettare in manco, e la sa tutto niente. Già anche l'altro giorno colando stavamo a guardare, adesso cavolo qua, hanno sporcato e poi non si degliano manco di pulire, tutte le gocce dell'anguria. Qua, lascia perdere, che ne abbiamo un paio di affettevoli noi, ma degli affettevoli non gliene frega niente di avere rispetto per nessuno. Abbiamo due affettevoli, uno è puzzolente, ha preso puzzolente perché vende i pesci, si porta i pesci a casa, puzzolisce tutto, sale con queste borse di roba puzzolente nell'ascensore, puzzolanti. Poi ce n'è un altro che abita proprio su di me, che ha un cane. Beh, tutte le volte che entra l'ascensore che cane, si cuzzuleggia, tutto pieno, ascensore di pelo bianco, pelo, ma non sai quanto pelo trovi per terra. E poi, non puoi, sali tu, con la confezione dell'acqua, con la borsa della spesa, e la devi tenere in mano perché non le puoi neanche appoggiare. E sono due affittori, gli unici due delinquenti, vedete, sono delinquenti, che non gliene frega niente, stanno solcando tutto l'ascensore, l'ascensore nuovo ha messo pochi mesi fa, tutto acciaio, bello. Lei devi vedere, è già tutta graffiata, in terra è tutta gocciolata, adesso che portano bottiglie e roba così, non gliene frega niente. Comunque noi abbiamo una certezza adesso con questi due affittevoli, perché un proprietario ha anche interesse a tenersene conto le cose. Hanno spaccato adesso davanti all'ascensore, hanno spaccato dei mattoni, delle piastrelle, perché deve essere che qualcuno ha trasportato le bombole, bombolari come ne appoggia la bombola, spacca tutto, non gliene frega niente. C'era un tappeto grosso, ne hanno bucato, ha rivendito quella bombola, boom, un altro, e deve essere sempre la pittevole comunque. Hanno trasportato, a quanto hanno detto, con domini, poi c'è vero, non so, una lavatrice, hanno dato un colpo, hanno spaccato un altro mattone. Quei mattoni lì adesso, uguali, non li trovi più, hai capito? Cioè c'è gente, ma non è civile, sono dei bastardi. Sì, si l'ha fatto in brutto, non si mettono problemi per sfasciare le cose, capito? E lo so che sono così, molti se ne fregano. Io vabbè, sto vivendo qua a Bruno, Aldo lo sa, sto vivendo un periodo brutto perché stanno facendo dei lavori sotto casa e sono con questo trapano tutto il giorno, martelli, gli hanno demolito tutto l'appartamento, rotto muri, questo, quell'altro. Devono stare 3 mesi così, io me ne scappo, quando mi dice, beh, la musica ha dato per stare fuggendo, è certo che sto fuggendo, non vi la vuota sta in casa. Poi ci sono gli orari, no, per fare le cose, cazzo, ci mettono all'una, alle due, non ti fanno riposare, io sono abituato, dopo pranzo mi faccio la pennichella sempre, non posso fare manco quella perché è un casino. Sì, lasciamo perdere già, e se parliamo di questo, sono già andato dall'avvocato, quello di su, questo delinquente, ragazzo delinquente, sono due giovani, oltretutto, avranno 30 anni, due giovani, e sono venuti, sono affettevoli. Io sono un paio d'anni da quando sono arrivati qui, devi vedere tu quando rientro, da mezzanotte alla una, tutto sbattono spavimenti, spostano mobili, poi c'hanno un cane che deve essere tutto pieno di pelo, tutto il giorno con l'aspirapolvere, alle 3 di pomeriggio l'aspirapolvere, alle 11 di notte l'aspirapolvere, la mattina, drum, cioè qualcosa di antico, spostano mobili, spostano sedie, insomma mettiti un paio di feltrini sotto le sedie, cazzo, poi questi camminano scalzi, lui è un tipo anche pesante, quando cammina la volta, boom, ecco stanotte alla una del mattino, ma che cazzo hai da rompere le balle a fare casino, ti ho detto mille volte, mettiti un paio di ciabatte a matta di due, niente, il cane che abbaia tutto il giorno, guarda, da quando sono arrivati questi affittevoli, noi molte volte ce ne andiamo in campagna a dormire fuori, ce ne andiamo... non ci rimaniamo a casa, non c'è niente da fare, e infatti adesso siamo già andati all'avvocato per il cane che abbaia tutto il giorno, poi gli hanno dato un gioco pesante, il cane c'ha un gioco molto pesante e lo butta sul pavimento, è stato tutto il giorno bum, guarda, non gliene frega niente, glielo ho detto, me ne siamo pure attaccati, c'è una parola, questi affittevoli sono una massa di coglioni. Bruno, ma non gli farò nulla per il cane che abbaia perché è già appurato che hanno fatto diversi processi per queste cose e sempre i giudici dicono che il linguaggio del cane è quello, l'interessante è che non abbaia di notte e il cane dice abbaia è come se noi parlassimo la stessa cosa, ne ho sentito tanti di questi processi qua per i cani che abbaiano e anche a Forum l'ho sentito però gli dà sempre ragione, se non abbaiano di notte deve cercare di non fare abbaiare di notte e poi il resto della giornata se si rompe le balle, sì sono fastidiosi quelli che stanno sempre a abbaiare, il mio abbaia solo quando scoccano quel cazzo di pentagli di qua, se hanno preso il vizio di notte alle 4 di mattina, alle 3 di mattina buttano i fuochi d'artificio, bu, il cane allora abbaia, normale che abbaia, no? Perché sente il rumore. L'altro giorno, l'altra notte si è affacciata quella di su, gliel'ha detto di tutti i colori, e gli ho detto, ma ancora, non l'avete ancora capito che fanno così quando arriva la droga per far capire che è arrivata. Ma io sento questa storia qua, no? Siccome dalle parti nostre, dalla parte giù ci sono sempre i fuochi d'artificio, tutto là. Questa storia qua, tutta io. È possibile che durante, anche durante l'inverno nel confesso non c'è niente, passano questi scoppi, questi... Il mio cane ha paura. Lo sai quando abbaia il mio cane? Quando abbaia quello di su, siccome quello di su è un Jack Russell, ma Rosaia t'abbaia, allora il mio lo senti abbaia anche lui. Infatti io me lo sto sempre portando a presso anche la mattina, quando esco, è sempre con me, perché ho paura magari che dia fastidio. Ma il problema non è neanche l'abbaiare del cane. Il problema è che questo cane gli hanno dato un gioco che è molto pesante e lui gioca lo sbatte per terra tutto il giorno, bubum, capito? Perché poi se il cane abbaia, ma non me ne frega niente, ce l'ho anche io il cane, non potrei dire niente, il mio non abbaia mai, abbaia solo quando sente quello di su che abbaia, perché quello di su quando attacca l'aspirapolvere abbaia, segue l'aspirapolvere abbaia, allora il mio sente a lui abbaia, ma ne ha rovinato un cane. Perché se non sono arrivati qui, il mio cane non aveva mai abbaiato. Mi dà fastidio a me. E poi quando arriva il postino che suona il campanello, fa un casino della Madonna. abbiamo cercato molte volte di fargli capire che non deve abbaiare, su quello non c'è niente da fare, dando suona il campanello, il postino è diventato mancante. E me abbaia solo quando sente gente che salta nelle scale, ci sono dei ragazzi che fanno le scale saltando, l'abbiamo fatto tutti, bro. Quando sente questi ragazzi che saltano nelle scale e hanno una baia. E poi quando vede cani fuori, però in giornata, di notte, si ammaia di notte perché c'è qualche cosa. E una notte ha ammaiato e c'erano due che stavano aprendo delle serrande. Sì, no, ma quello, il mio cane non abbaia mai, soltanto che, ripeto, questo Jack Russell, quando lo stanno portando fuori, sembra che lo stiano strangolando, fa tutte le scale abbaiando, ma fa un casino, a tutte le ore, e a questo non gliene è mai fottuto niente, devi vedere il casino che fa, o lo picca, non lo so, questo cane, ma ridi, perché non è un abbaiare normale, proprio, fino a che non c'esce fuori dal portone, fa un casino della Madonna. Allora il mio cane cosa fa? Tra la porta e la baia, quella baia da fuori, questa baia da dentro, e infatti l'altro giorno ci hanno attaccati perché questo stronzo di cretino che porta questo cane giù, gli ho detto guardi che sta graffiando tutta la porta perché sente la presenza del mio cane e graffia. Ci siamo attaccati, non c'è stato niente da fare. Adesso non trovo l'avvocato e adesso vediamo cosa succede. Questi architetti sono una massa di stronzi perché non gliene frega niente. E ci sono anche quelli che hanno la testa, devo essere questi qui proprio sono fatti rassati, come si dice sassarese, perché c'è la gente che ne ha affitto e che si comporta anche bene, non è che. Però il problema è proprio la civiltà delle persone, perché se non c'è la civiltà che sono primitivi e chi sa io. Scusa, questo c'è Alexa, no? Alle 2 del mattino, parte Alexa, tutta voci, accendimi la luce, spegnimi la luce, dimmi che ore sono. Ma secondo te le 2 o 3 del mattino sono ore di rompere le balle Alexa? Ti alzi e ti guardi la sveglia, ti alzi cazzo e ti sbatti la testa al muro. Ma tutto il volume lì, disturba il tuo palazzo. Beh, allora ti dico, io mi sono attaccato due o tre voci. Gli altri tutti muti, nessuno dice niente. E questo qui, Alexa, accendi lo stereo, solleva il volume, tutto il volume a manetta. Ma c'è bisogno di rompere le balle con Alexa. Ti alzi e sollevi il volume, anche se puoi rompere le balle comunque. Alexa ce l'ho anche io, ma non l'hanno mai sentito, perché lo uso basso basso, e vado a fanculo. No, io ce l'avevo lo spirita insieme alla pipa, lo spirita insieme a lei. No, ma non è quello lì, eh? Diciamo che noi usiamo con promemoria, mia moglie, io queste cose qua perché non le posso vedere. Con promemoria, che ne so, magari mette un orario per ricordarle che deve fare qualche cosa, che deve prendere qualcosa, deve andare a fare l'altro, capito? Ma non è che alle 2 alle 3 del mattino Alexa spegnimi la luce, spegnimi la televisione, ma vattene a fanculo, ma tu sei un miserabile, hai 30 anni, ma sei un pezzo d'asino, è un asino. Beh, non ne hanno mai voluto sentire niente, non gliene frega niente. Probabilmente gente proprio che non si sa comportare in un condominio, dovrebbe vivere come primitivi. Ma guarda, io la prima volta che ancora sono arrivato dove tre anni fa, sono salito su perché sentivo questo casino, poi quando si azzuffano non ne parliamo, le voci, solo lui sta sempre a voce. Quando gioca una squadra di calcio si batte tutto sul pavimento, fa un casino. E il salito è giocatamente, gli ha detto guardi che. Ah, no, è Martino, non siete voi. Se siete voi sopra di me. E vabbè, fai due volte così. Faccio pensare, non capisco. Non gliene mai fregato niente. Tanto che nel casino che fa. Si è attaccato anche un altro mio vicino di casa, la porta fianca alla mia. Che questo è ancora peggio di lui, non dura per te. Questo qua. Prende il pesce, si porta il pesce a casa, deve essere con le borse, perché io lo vedo, perché...